in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Iniziamo come sempre dal Sole 24 Ore, che si concentra sul convegno dei giovani di Confindustria che c'è stato a Capri, e il titolo scelto è un virgolettato del presidente di Confindustria Bocci: Europa più integrata, risposta a Stati Uniti e Cina. E poi sono state annunciate una serie di iniziative, tra le quali una assise all'inizio del 2018 per presentare un'agenda politica. A proposito di fisco e di pensioni, che sono due temi importantissimi per tutti, c'è una anticipazione, un'ulteriore spiegazione di che cosa contiene la manovra fiscale appena approvata dal governo, appena nel senso settimana scorsa, o meglio all'inizio di questa settimana. Pensioni APE volontario fino al 2019. La manovra infatti prevede un anno in più di sperimentazione per questo anticipo pensionistico, che è una delle novità appunto non soltanto della riforma fiscale appena approvata, ma comunque di tutto il pacchetto fiscale che ci troveremo nel 2018. La prima pagina del Corriere della Sera, come molti altri, ha una fotonotizia dedicata alla Catalogna. Ieri infatti sono scese in piazza molte persone, si parla di 450.000 persone. È un po' la reazione da una parte alle parole del premier spagnolo Mariano Rajoy, che a Madrid ha detto attiviamo l'articolo 155 della Costituzione, che prevede la sospensione dell'attuale autonomia della Catalogna. C'è stato subito il discorso di risposta del presidente della Catalogna, il governatore della Catalogna Carles Puigdemont, che non promette questo scontro frontale, non promette niente di buono, anche se per ora tutte le manifestazioni sono state molto pacifiche. Laura Boldrini scrive al Corriere della Sera e scrive anche lapsus anche a noi, al Sole 24 Ore, spiegando perché le mozioni come quella del disfiducia al governatore Visco presentata dal PD questa settimana, nel senso che il PD, in vista della scadenza del mandato di Visco prevista per la fine di questo mese, ha espresso il suo parere, cioè sappiamo che non è il partito di maggioranza né il segretario del partito di maggioranza a scegliere il governatore della Banca d'Italia. Però ha fatto questa mozione, Laura Boldrini l'ha accolta, è stata molto criticata per questo, e quindi adesso scrive sia al Sole 24 Ore che al Corriere, forse qualcun altro mi è sfuggito, e spiega perché quelle mozioni erano ammissibili. Bellissima intervista di Pietro Grasso, presidente del Senato, al Corriere della Sera. Forse lo ricorderete, Pietro Grasso e tutto sommato sono dichiarazioni che hanno ricevuto all'epoca pochissima eco, con mia grande sorpresa. Era già intervenuto sui femminicidi dicendo, semplifico molto, però, di sentirsi comunque in quanto uomo in difetto sulla questione dei femminicidi, e ora concede questa intervista al Corriere della Sera e di nuovo torna sull'argomento femminicidi e dice: se un magistrato non dà seguito alle denunce delle donne, soprattutto se ci sono omissioni dolose, il problema riguarda il CSM, cioè l'organo di controllo della magistratura. La Repubblica, fotonotizia dedicata alla manifestazione di Barcellona, scrive Repubblica: migliaia in piazza, in realtà appunto come abbiamo visto quasi mezzo milione. Il titolo principale però fa riferimento a una intervista che poi trovate a pagina 3 della Repubblica a Roberto Speranza, leader di MDP, i fuoriusciti dal PD, tra i quali naturalmente spiccano anche Bersani e D'Alema. Adesso MDP dice: segnale a Renzi, aperte virgolette, non è lui il nemico. A noi, a piccoli osservatori delle dichiarazioni, non era sembrato così, era sembrato proprio che per MDP il nemico fosse diventato Renzi. In ogni caso adesso Speranza pare fare marcia indietro. L'Espresso, in edicola con la Repubblica, credo che sia forse Già da questo numero non è più firmato da Tommaso Cerno, che è diventato condirettore, ed è la prima volta nella storia di Repubblica, condirettore di Repubblica. Quindi l'Espresso verrà guidato da Marco da Milano, che era il suo vice direttore. La copertina questa settimana è intitolata Secessionellum, il vero rischio della legge elettorale, nord alla destra, PD e Grillo a contendersi centro e sud e un paese diviso anche socialmente. La Stampa invece ha la fotonotizia dedicata a JFK. La foto è di un JFK sorridente in un viaggio in Messico nel 1962, e perché ieri a sorpresa Donald Trump ha detto che toglierà il segreto di Stato su migliaia di documenti sull'assassinio di JFK. Secondo molti osservatori questo è veramente un passo interessante, l'omicidio di JFK è uno dei grandi misteri della storia americana, e vedremo se forse togliendo il segreto a questi documenti ci saranno delle nuove rivelazioni. Il titolo principale però è dedicato alla Catalogna commissariata. E poi questo, subito nel titolo, questi due fatti che in effetti colpiscono, cioè che con questa mossa di Rajoy il governo centrale della Spagna potrà controllare la polizia della Catalogna e eventualmente anche la televisione della Catalogna. Questo prevede appunto la sospensione dell'articolo 155. Ultimo titolo, prima di lasciarci un attimo per una pausa sul traffico, dall'Avvenire. Come forse avrete sentito magari in qualche anticipazione, l'Avvenire ha intervistato invece Renzi, che ha ribadito di essere convinto della necessità di quella mozione di sfiducia a Visco, e poi ha anche annunciato che ci vuole insistere per introdurre un bonus per tutti i minori, 1.000 euro per ogni figlio, indipendentemente appunto dall'età, dal reddito, da qualsiasi cosa. Il titolo principale però per la Chiesa italiana è Tempo del Coraggio, infatti c'è un'intervista al presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, che dice usciamo con la gioia del Vangelo, quotidiano dei Vescovi, quindi appunto tra le due interviste ha giustamente privilegiato nel titolo quella al presidente della CEI. Ci lasciamo un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta in primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci mancava ancora qualche prima pagina dei quotidiani di oggi, poi vediamo alcune cose all'interno, i supplementi della domenica. Anche il Messaggero ha un'intervista che serve da titolo principale della copertina ed è ad Antonio Tajani. che è virgoletta, il Messaggero poi sceglie questo virgolettato: serve uno stop alle piccole patrie. Lo spunto naturalmente sono gli avvenimenti in Catalogna e poi i due referendum di oggi, quello che si tiene in Lombardia e quello che si tiene in Veneto, per una maggiore autonomia. Antonio Tajani, naturalmente presidente del Parlamento europeo, ha preso il posto di Martin Schulz quando Martin Schulz si è dimesso per candidarsi alle elezioni politiche della Germania, e ora si fa il nome di Antonio Tajani, che però ha più volte smentito, come possibile candidato del centrodestra, gradito soprattutto a Berlusconi. Il Fatto Quotidiano titola sulla Catalogna: Madrid fa il colpe bianco, ribellione catalana in piazza. E poi vi segnalo, per ancora chi fosse appassionato, non fosse sazio, ieri sera ho sentito in replica una puntata della Zanzara dove c'erano molti interventi su questo, quindi chi non fosse sazio delle discussioni intorno allo scandalo Weinstein, il grande boss della Miramax, una delle più importanti case di produzione americane di cinema, che si è scoperto essere, o meglio, pare che tutti sapessero, ma nessuno avesse detto palesemente, comunque si è scoperto essere un molestatore seriale. E Selvaggia Lucarelli scrive un articolo, a mio avviso, abbastanza triste, perché comunque è un attacco ad Asia Argento, e questo modo di affrontare la questione, soprattutto nei toni, personalmente non mi è piaciuto. In ogni caso, il titolo del pezzo di Selvaggia Lucarelli, che poi trovate a pagina 16, è Asia, la morale dagli USA anche no. Scappa dall'Italia sessista, ma Weinstein di chi è? E io suggerirei a Selvaggia di leggere l'articolo del giornale sul quale scrive, cioè il Fatto Quotidiano, l'articolo a pagina 3, il titolo è questo: Bella e centrista, due punti. Inès la passionaria, paladina degli antisecessionisti. Per presentarci questo interessantissimo personaggio che è Arrimadas Garcias, che è l'esponente di Ciudadanos dal 2015, portavoce del partito di Rivera, che è appunto un antisecessionista della Catalogna, quindi una posizione interessante per capire che cosa sta succedendo in Catalogna. Il giornale sul quale scrive Selvaggia Lucarelli, che asserisce che questo sostanzialmente non è un paese sessista. Per parlare di questa signora, di questa donna che si occupa di politica, la presenta come bella e centrista. Secondo me è una presentazione, non so, per una showgirl, appunto, che è bella e si mette al centro della scena. Perché si debba titolare così su un personaggio politico che tra l'altro ha il pregio di farci capire alcune cose importanti su una questione che in qualche modo ci tocca, non lo so. In realtà me lo spiego dicendo che questo è di fatto, per molti versi, resta un paese sessista, che ne dica Selvaggia Lucarelli criticando Asia Argento. Libero: chi non vota l'autonomia o è un ladro o è una spia. È Vittorio Feltri stesso nello scrivere il suo pezzo, che dice: un titolo scherzoso per un articolo relativo a una questione seria, il referendum sull'autonomia del Veneto e della Lombardia, bisogna votare sì a tutti i costi, perché queste due regioni non ne possono più di essere sfruttate e rivendicano il diritto di decidere il proprio destino. La verità: dovete decidere se dire sì a Milano e Venezia oppure a Roma. E poi c'è un articolo di Giampaolo Pansa, forse ricorderete, qualche settimana fa ne aveva scritto uno dicendo che la colpa, sostanzialmente semplifico, però era un attacco alle donne, perché la cultura femminile starebbe rovinando il mondo, in un certo senso, questa era la sua delirante tesi. Oggi si esercita su Repubblica. Repubblica è il secondo quotidiano italiano generalista dopo il Corriere della Sera, ha sicuramente in questo momento dei problemi. Giampaolo Pansa ha scritto per 14 anni su Repubblica e ora il suo articolo di oggi si intitola così: De Benedetti si toglie lo sfizio di sfasciare il suo giornale, ed è all'interno che ho letto la parte più così, che mi ha più colpita negativamente, ed è questa: a Repubblica non c'è mai stato un condirettore, ma soltanto dei vice, come abbiamo detto prima. Appunto, sta arrivando come condirettore Tommaso Cerno, ex direttore dell'Espresso. Scalfari ne aveva due, Calabresi, l'attuale direttore, ha addirittura sei vice. Quale sarà il ruolo di Cerno? Regolare il traffico tra i vice o aspettare che Calabresi si dimetta per prendere il suo posto? È vero o no che nel vertice di Repubblica i malumori sono tanti e il brontolio si raggruma attorno a questa domanda: ma chi è questo Cerno? Che storia professionale ha alle spalle? Ha scritto libri decisivi, trattati di giornalismo innovativo? E Pansa si risponde: ma che? Nulla di nulla. Ora, Tommaso Cerno è stato il direttore del Messaggero Veneto, che è un quotidiano del gruppo Finegil, quindi credo che i vertici di Repubblica lo conoscano e come. Nessuno si domandi chi è questo Tommaso Cerno. Soprattutto ha scritto moltissimi libri, ha diretto l'Espresso, lo ha radicalmente cambiato e riportato a un magazine che sicuramente può piacere o non piacere, come tutto, ma è molto interessante, è fatto bene, è stato rivoluzionato. Pansa mi sembra l'unico giornalista a non sapere chi sia Tommaso Cerno, e soprattutto come se per esempio riformare o cambiare Repubblica in modo da farla uscire dalla crisi in cui sembra essere, serve un trattato di giornalismo innovativo, un libro decisivo, o piuttosto serve un'esperienza da direttore che Tommaso Cerno ha? Per me la risposta ovviamente è: serve l'esperienza. Ma Pansa sembra non essere d'accordo e appunto ci offre questa pagina intera della sua opinione su quello che succederà a Repubblica. Il giornale: ecco tutti i numeri che danno ragione al sì, e quindi anche in questo caso il giornale, come Libero e come La Verità, si schiera per votare sì a questi due referendum che si tengono oggi in Lombardia e Veneto per chiedere maggiore autonomia. Il manifesto catatrac. naturalmente riferito alla Catalogna. Manifesto è anche l'unico giornale che mette in prima pagina la vittoria di Andrej Babiš in Repubblica Ceca alle politiche che si sono tenute ieri e l'altro ieri. Stravince Babiš, crolla la sinistra. Passiamo alle pagine interne, torniamo un attimo sul Sole 24 Ore. Perché ci sono tre approfondimenti sulla questione della Spagna. Uno è una sorta di cronaca: Spagna nel caos, Madrid esautora il governo catalano, ce lo spiega Riccardo Sorrentino, tutto a pagina 5. Una interessante curiosità che ci racconta Attilio Geroni, che delle pagine di Esteri è il caporedattore qui al Sole 24 Ore, che si intitola Heineken e il sogno dei 75 stati regioni. Negli anni 90, pensate, il magnate olandese della birra teorizzò un diverso modello federale. Questa era l'opinione di Freddy Heineken. E poi un'analisi di Alberto Negri: la secessione senza piano B, che sembra essere l'attuale scenario, porta al disastro economico. Come sempre, la domenica del Sole 24 Ore, le due pagine di commenti e inchieste: da una parte l'incontro a tavola con di Paolo Bricco, questa settimana è con un ingegnere chimico, Alessandro Sannino, che ha però un PhD in tecnologia dei polimeri ed è fondatore di una società che si chiama Gelesis, una società che si dedica alle biotecnologie, e un fondo americano ha scommesso su questa società del Salento di biotecnologie. A proposito della Catalogna, un bel approfondimento del Corriere della Sera, pagina 3, pasta, gas, spumante, 1000 aziende in fuga dal destino incerto della Catalogna. Pensate, da oggi a oggi, dal referendum, quello che è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche se le tensioni naturalmente tra Madrid e Barcellona duravano da qualche mese, e una delle critiche che si muove a Rajoy è che la data di questo referendum era certo e si è corsi ai ripari troppo tardi. In ogni caso, da quel giorno, cioè il 2 ottobre, hanno lasciato come sede societaria la Catalogna 1200 società in tutto. Sempre dal Corriere della Sera, una notizia che dovrebbe colpire molto, ce l'hanno in tanti ma non con questo spazio: Monica Ricci Sargentini, che prende spunto da questa nomina fatta dall'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi l'ONU, che ha nominato ambasciatore Mugabe. Mugabe è sicuramente è stato un dittatore. Viene definito un affamatore, perché pensate che negli anni 90, con Mugabe presidente dello Zimbabwe, l'aumento della mortalità infantile fu del 50%. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Buongiorno, buongiorno, ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali. Ancora una segnalazione, perché questa è una bellissima recensione a un libro che deve essere molto interessante, che si intitola Nascita di una cattedrale. L'ha scritto Paolo Grillo, l'ha pubblicato Mondadori, è la storia appunto della nascita del Duomo, che poi sapete qui a Milano si dice, per dire qualcosa che non finisce mai, è come la fabbrica del Duomo. Il titolo di questa recensione è Duomo di Milano, il grande business del Medioevo. Politica, appalti, truffe, sperperi, le scoperte di uno storico che ha scavato nei libri di conti del cantiere 3-400esco, quindi veramente non molto è cambiato da quell'epoca. Un'ultimissima segnalazione prima di passare ai supplementi domenicali, ve la faccio dal Fatto Quotidiano, che ha un'inchiesta di due pagine sugli ambasciatori, intitolata Il giallo degli stipendi degli ambasciatori, più li tagli più salgono. Ci fu una riforma nel 2015 che serviva per ridurre un po' le spese, tra parentesi scandalose, scrive il Fatto Quotidiano, e chi si ricorda le cifre fatte in quell'occasione sicuramente può essere d'accordo. E però alla fine sono stati, come spesso accade, fatta la legge e trovato l'inganno, sono stati poi trovati delle sorte di integrazioni, e alla fine gli stipendi appunto sulla carta sono più bassi, nei fatti non lo sono. Altre due segnalazioni dal Fatto Quotidiano: una è una recensione di un libro che ho visto proprio ieri in libreria, è di Paolo Isotta, l'ha pubblicato Marsilio, si intitola Il canto degli animali. Paolo Isotta è uno dei più importanti critici e storici della musica italiana. In questo libro, da Ovidio a Liszt, Paolo Isotta attraversa letteratura e musica per raccontare le umiliazioni inflitte dall'uomo ai suoi fratelli, capaci non soltanto di perdonare, ma anche di dare l'esempio. E poi una segnalazione sempre sulla stessa pagina che riguarda Radio 24, gli amici di Radio 24, gli amici di Alessandro Milan e di Francesca Del Rosso, e questa sera infatti al Monk c'è questo... Al Monk di Roma c'è la mostra che verrà inaugurata, sono sulle fotografie appunto di Francesca Rosso, che come sapete ha perso la sua battaglia contro il tumore, però resta un esempio per come l'ha combattuta, per questo suo atteggiamento di resilienza. Ringrazio tra l'altro tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi così presto la domenica mattina al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp, e passo ai supplementi della domenica, cominciando come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Tutto ed è tratto da una poesia di Wisława Szymborska, che è poetessa e premio Nobel. Tutto, una parola sfrontata e gonfia di boria, andrebbe scritta fra virgolette, finge di non tralasciare nulla, di concentrare, includere, contenere e avere, e invece è soltanto un brandello di bufera. Scrive Ravasi, l'aggettivo detestato, tutto, in verità risuona anche nel sottotitolo della raccolta La gioia di scrivere di Wisława Szymborska, tutte le poesie, tradotte da Adelphi nel 2009. È vero però che questa parola cela la pretesa totalizzante dell'uomo contemporaneo, ansioso di possedere tutto, di sperimentare tutto, di sfidare tutto. Alla fine egli corre il rischio di stringere tra le mani solo un brandello di bufera. Un'agitazione frenetica, un'ascensione vertiginosa, un'euforia eccitata si rivelano spesso solo illusione, dalle stelle alle stalle, come si usava dire in modo popolare ma incisivo in passato. Forse è il poco con amore, il piccolo passo quotidiano, la semplicità a rendere veramente felici. Non ti chiedo di vedere l'orizzonte lontano, un solo passo mi basta. E questa è una citazione di John Newman. La copertina vera e propria però è dedicata a Orhan Pamuk, il grande scrittore turco, anche lui premio Nobel, perché sta per essere pubblicato un nuovo libro, una nuova edizione di Istanbul, i ricordi e la città, e un libro di Pamuk, e lui ha fatto una nuova introduzione, la Sole 24 Ore ne anticipa una parte, quindi tutta dedicata alla sua città. Il Nobel Orhan Pamuk è andato alla ricerca di foto d'infanzia per raccontare il lato malinconico della sua città, Istanbul. Poi, molto interessante questo articolo di Ormanno Cavazzoni, che è un racconto ed è, secondo me, un'idea molto interessante. Io l'ho sognato più volte di poter tornare indietro nel tempo. Protagonista di questo racconto è il signor Premian. Il titolo del racconto è Il dilemma del signor Premian, e si immagina che in una clinica svizzera, grazie a un esperimento, si può tornare indietro. Ma che cosa scegliere? L'infanzia, l'età delle scuole medie, i 20 o i 40 anni? È un esercizio, insomma, potete leggere il racconto e poi magari immaginare appunto voi dove vorreste essere trasportati. Un'ultimissima segnalazione dalla Domenica del Sole 24 Ore, nelle pagine dedicate all'architettura. C'è un intervento di Harry Francis Mulgrove, che interverrà poi a questo convegno che c'è a Pistoia sull'architettura, ed è interessante perché comunque, specie in questo momento in cui si parla molto di riqualificazione delle periferie, di non sprecare il suolo e magari riqualificare ciò che già esiste, il titolo di questo intervento che lui farà a Pistoia è Emozioni spaziali. Gli edifici sono in grado di suscitare in noi risposte emotive, non solo attraverso la vista, ma anche con un insieme di sensazioni corporee. La lettura del Corriere della Sera dedica, come sempre, la copertina a un artista. Questa settimana è Joseph Montgomery, e dall'interno vi segnalo un'intervista di Pier Domenico Baccalario a Philip Pullman, che è un uno scrittore fantasy molto di grande successo, è andato a intervistarlo a Oxford, dove vive. Il titolo dell'intervista è «Bambini, leggete le filastrocche, svelano la potenza delle parole». Robinson della Repubblica è una copertina un po' enigmatica, c'è una fotografia notturna del Museo del Novecento di Milano, quindi molto vicino a Piazza del Duomo, anche se il Duomo in questa foto non si vede, e il titolo è «Preferisco il silenzio», all'interno, prendendo spunto da un libro che esce in questi giorni, appunto la rivalutazione del silenzio, del rimanere in silenzio, che naturalmente forse favorisce l'ascolto degli altri oltre che di se stessi. E invece Alias del Manifesto dedica la prima pagina a un nuovo libro, un'antologia degli scritti di Martha Nussbaum, che è una filosofa americana, che si intitola Rabbia e perdono. In realtà ho un ultimissimo spazio per segnalarvi la copertina di Macro, il supplemento del Messaggero, dedicata a Oscar Wilde, perché viene portato in scena in teatro il dramma della sua vicenda. Fu più volte arrestato perché era omosessuale, all'epoca l'omosessualità era un reato in Inghilterra. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricelli in regia, un grazie a tutti gli ascoltatori per i loro messaggi o anche solo per l'ascolto, e una buona domenica da Giulia Crivelli.